in primo piano. I giornali di oggi ci offrono tante cose, però io vorrei cominciare proprio dal tema della lavanderia, perché io non sapevo che se ne sarebbe parlato anche più avanti, ma vale la pena di leggere queste poche righe, perché insomma è una lavanderia più o meno, credo, da evitare, ecco, per chi dovesse capitare a Milano. Allora vi leggo sulla Stampa queste poche righe che dicono: lavanderia d'oro, 600 euro per 10 camicie e 2 jeans. Sul resto niente sconti, ma i calzini glieli hanno lavati gratis. Gentile omaggio della tintoria su un conto da 614 euro per 10 camicie, 7 magliette e 2 jeans. Tanto quanto uno stipendio precario in tempo di crisi. La disavventura è capitata a Luca Giussani, imprenditore di passaggio a Milano, che, ospite di amici, su consiglio del portiere ha affidato alcuni vestiti alla tintoria Alberti. Giussani è ripartito senza vestiti perché non ha pagato. Ecco, di questo, come diceva prima Alessandro Milan, parlerà più tardi Radio 24 e credo, se ho ben capito, potrete sentire questa esperienza raccontata dalla viva voce proprio del malcapitato cliente della tintoria. Vorrei tuttavia iniziare questa rassegna stampa leggendovi dei brani di un articolo del Messaggero sul tema della influenza suina, o l'influenza A, insomma, H1N1. Ve lo leggo perché, vi leggo questi brani perché in questi giorni si è scritto di tutto, di più: il business, il pericolo, la gravità, la pandemia, eccetera. Oggi Silvio Garattini sul Messaggero, per l'appunto, compila una sintesi, secondo me encomiabile per chiarezza e sintesi, e quindi ve la propongo. Allora, Silvio Garattini dalla prima pagina del Messaggero. A proposito della H1N1, a che punto siamo? Certamente adesso possiamo parlare di pandemia, dal momento che il virus originato in Messico si sta diffondendo in molti paesi del mondo. Tra questi, peraltro, non figura l'Italia, dove le poche centinaia di casi finora registrati non consentono di parlare di epidemia. Un interessante studio mostra, fra l'altro, che la diffusione è avvenuta principalmente per via aerea, nel senso che i paesi più infettati sono quelli che hanno linee dirette con le città del Messico. La globalizzazione determina quindi anche la diffusione delle malattie infettive. Non c'è più spazio per l'idea che ciò che avviene nei paesi in via di sviluppo non finisca per interessare anche i paesi industrializzati. E quindi è così. E prosegue Garattini, scienziato, ricercatore dell'Istituto Mario Negri, se non ricordo male, di Milano. Scrive ancora: i governi, sotto la spinta di potenti interessi economici, si sono interessati a ottenere la disponibilità di vaccini e farmaci piuttosto che dare istruzioni al pubblico. La trasmissione dell'influenza avviene principalmente attraverso l'aria. Goccioline d'acqua piene di virus vengono emesse dal naso e dalla bocca dei portatori dell'infezione e inspirate da soggetti sani che sono privi di immunità, trattandosi di un virus nuovo per l'organismo umano. Inoltre, poiché le goccioline con i virus si depositano sugli oggetti, è possibile che la gente si infetti toccando questi oggetti e portandosi poi le mani al naso e alla bocca. E quindi dice, in questo senso, il primo consiglio è quello di frequentare locali non troppo affollati e anche di lavarsi spesso le mani. Ancora continua Garattini. Quindi i vaccini non sono ancora pronti per questa influenza. I farmaci poco attivi e la asserita efficacia contro il virus H1N1 non è per il momento sostanziata da evidenze, dato che l'infezione è per il momento poco virulenta. L'uso di questi farmaci va sconsigliato perché, salvo casi gravi di prescrizione strettamente medico-specialistica, si rischia, con questi farmaci, di selezionare virus resistenti e quindi non più trattabili anche per quel poco che si può ottenere. E conclude: per il momento è perciò inutile spaventare il pubblico con informazioni catastrofiche, anche perché sarebbe il caso di non riprodurre la situazione dell'influenza aviaria, vi ricordate quella dei polli? Tanto rumore per nulla. È meglio limitarsi a ciò che sappiamo. Le previsioni e i possibili scenari di intervento vanno presentati in modo specifico solo quando devono essere messi in pratica. Ecco, mi è sembrato di fare cosa utile riportando questo articolo di Silvio Garattini sulla prima pagina del Messaggero. Dalla prima pagina della Stampa, invece, Vorrei citare dei brevi brani dell'articolo di Mario De Aglio, l'economista che è riferito alla crisi per uscire indenni, è il titolo dell'articolo, e scrive De Aglio: mentre si apprestano a partire per ferie un po' più brevi e un po' più ansiose di quelle del passato, molti italiani si stanno indubbiamente chiedendo a che punto siamo con la crisi. E prosegue all'interno: i tempi e l'intensità delle reazioni degli attuali sistemi economici, nei quali dall'industria deriva solo un quinto del prodotto totale, mentre quasi tutto il resto è produzione invisibile, sempre più effettuata e fruita istantaneamente su supporti elettronici, sono quindi tempi e intensità molto diversi da quelli del passato. E gli economisti sono come dei medici che stanno visitando un paziente nuovo o quantomeno un paziente che è molto cresciuto dall'ultima visita. Quindi qui mi ha richiamato, proprio mi ha risuonato anche l'articolo di Garattini. A livello mondiale le uniche cose certe sono che la Cina, l'India e il Brasile sono colpiti dalla crisi in maniera leggera, che gli interventi di salvataggio delle grandi banche e società finanziarie americane e di non poche europee si sono rivelati efficaci nell'immediato, ma hanno trasferito il rischio sulle banche centrali, specie sulla Fed americana, che ora devono impegnarsi per mantenere la propria credibilità. Ancora, sempre Mario De Aglio sulla Stampa, dice: sappiamo ancora che la scintilla della ripresa globale ben difficilmente deriverà da un'improvvisa risalita dei consumi americani che hanno trainato per decenni l'espansione mondiale, perché le famiglie americane sono fortemente indebitate e un loro significativo ulteriore indebitamento appare estremamente difficile. Non verrà, se non in piccola parte, dalla domanda cinese, pure in crescita, a soddisfare la quale contribuiranno soprattutto le imprese cinesi e di altri paesi asiatici. L'altro pilastro su cui provare a costruire un'espansione produttiva è rappresentato dai grandiosi piani di investimento dell'amministrazione Obama, ma, come sempre succede per la spesa pubblica, questi piani richiedono molto tempo per partire. E così questa è l'analisi di Mario De Aglio, che ci conduce direttamente con il suo scritto a un altro tema molto trattato dai giornali in edicola oggi, che è proprio il versante americano, e cioè la doppia sfida di Obama, che molto bene, come vedremo poi, sintetizza Repubblica in un titolo: Obama alla guerra di docs e cops. Docs e cops, cioè alla guerra dei medici, per estensione della sanità, e cops, ovvero dei poliziotti, perché Obama ha vivacemente protestato con i poliziotti che l'altro ieri hanno arrestato quel professore quel professore universitario americano Henry Louis Gates, solo perché nero e perché tentava di aprire la porta di casa sua. A pagina 10 e 11 restiamo per ora alla Stampa. Obama: la polizia ha agito stupidamente, c'è troppo razzismo. Questo è un virgolettato riportato appunto dalla Stampa, ma da tutti gli altri giornali, chi con più chi con meno evidenza. Il presidente abbatte l'ultimo tabù e attacca i cops, sproporzionato il numero di arresti tra neri e ispanici. È una presa di posizione netta ed è abbastanza come dire, fa un certo effetto, sinceramente, che il presidente degli Stati Uniti dica una cosa di questo genere dopo anni, decenni in cui, bene o male, la polizia americana, da questo punto di vista, ha avuto mano libera, fino a quelle, ricorderete, rivolte negli anni scorsi in alcuni quartieri o città, particolarmente in cui la popolazione nera o ispanica era particolarmente densa. Il poliziotto accusato risponde: ho fatto il mio dovere, solidarietà da parte dei colleghi, ma il sindaco di Cambridge, di questa cittadina, si scusa per lui. Nelle stesse pagine si parla dell'altra grande sfida di Obama, quella della sanità. Rispedito a casa in coma e l'America si vergogna. Il caso di un guatemalteco che non poteva pagare. Questo è un modo appunto raccontare la sfida di Obama sul versante della sanità attraverso un singolo caso, attraverso un episodio significativo. Nelle pagine precedenti la Stampa, pagina 2 e 3, dedica molto spazio alla Sardegna assediata dalle fiamme, è una notizia che troviamo ovviamente su tutti gli altri giornali. Due morti, fa paura, Due morti in Sardegna, perché poi ce ne sono altri in altri, anche in altri paesi. Paura fra i turisti, fuga verso il mare, temperature record, arrivano i giorni più caldi. L'isola è un enorme braciere, è il reportage di Nicola Pinna. La forestale dice situazione catastrofica, evacuato un carcere, i detenuti portati in spiaggia e sorvegliati a vista. Eccoci che... ovviamente sempre la stampa parla di questa altra vicenda di cui si occuperà più tardi Radio 24, ovvero la questione della scuola, non solo per la faccenda del Veneto che non vuole presidi se non veneti, ma continuando questo dibattito sulla qualità della nostra scuola, e ci sono quindi due pagine, 14 e 15, con questo titolo: il sapere è inutile, sistema sotto accusa, tutti bocciati, prof e allievi, scuola da rifare. Le indagini relegano l'Italia a fanalino di coda, giovani incapaci di risolvere qualsiasi problema. Vi ricordo l'articolo di Luca Ricolfi letto ieri. Non capite la generazione degli SMS, siamo nelle stesse pagine, c'è l'intervista a Valentina Carosso, la studentessa modello, che dice al liceo si sbaglia l'ortografia. Lasciamo così la stampa e passiamo al Sole 24 Ore, che porta in prima pagina, anche in questo caso, una grande foto a colori degli incendi, dove si dice brucia l'Europa meridionale, due morti in Sardegna. Ma l'apertura del giornale è riferito al decreto anticrisi. Salta la stretta sulle banche. Alla Camera il governo pone la fiducia sul maxi emendamento ripulito di alcune norme. Dalla lotta all'evasione fiscale 200 milioni per la detassazione. Salta la stretta sulle banche significa che una serie di vincoli che il decreto anticrisi poneva alle banche, quanto ad ammontare di tassi, commissioni, eccetera, sono vincoli che sono stati tolti. Evidentemente il braccio di ferro tra le banche e il Ministero dell'Economia in questo momento ha favorito le banche. Dalla prima pagina del sempre del Sole, su cui torneremo subito dopo la viabilità, vi segnalo due brevi notizie. Una l'ho trovata solamente proprio sul Sole ed è: Parigi lancia Autolib, vetture elettriche a noleggio. Dopo il successo di Velib con le biciclette, Parigi torna alla carica con Autolib, 3.500 minicar elettriche a noleggio, 15 euro l'abbonamento mensile più 4 euro ogni mezz'ora di utilizzo. In primo piano. Eccoci, quindi stavamo parlando dal Sole 24 Ore di questa Autolib. Milano e le altre città sono arrivate finalmente alle biciclette a noleggio comunali per girare la città senza inquinare, senza intasare le vie di automobili. Insomma, Parigi è un passetto più avanti perché, come vi dicevo, si possono noleggiare 3.500 minicar elettriche che quindi non inquinano, sono piccole, si prendono in un posto, si lasciano in un altro. Sempre dal Sole 24 Ore vi segnalo la storia di oggi, un appuntamento ormai consueto. Ieri vi ricorderete quella di Leonardo Maesano che ha fatto questa esperienza di trovare, di fare una spesa senza spendere nei cibi gettati dai supermercati. Oggi è una storia di usura, il ritorno dell'usura al tempo di internet. È di Nino Amadore, il nostro collega che batte quotidianamente Sicilia e Calabria, e scrive Nino Amadore: lo chiameremo CS per evitargli altri dolori, racconteremo la storia di un uomo semplice che si è trovato a un certo punto della sua vita prigioniero di un cravattaro, di un usuraio, di un bloodsucker, succhiasangue, secondo una recente definizione dei magistrati palermitani, un imprenditore con crediti esigibili per parecchie migliaia di euro, quindi doveva avere dei soldi, che però non poteva incassare perché i committenti non avevano questi soldi, soffocati a loro volta dalla crisi economica. Un caso limite forse, considerato che lo strozzino era il direttore della banca dove CS aveva il conto. E da qui inizia questa storia che prosegue per tutta la pagina 2, dove troviamo anche un'altra sorpresa dal punto di vista grafico, un inedito assoluto per il Sole 24 Ore, e cioè una striscia di fumetto che riassume, sintetizza la storia. Quindi il fumetto ha fatto il suo ingresso nel Sole 24 Ore. Vi invito a leggerla, è una storia ovviamente che è emblematica, perché infatti, spiega la titolazione di pagina 2, oltre 150.000 imprenditori sono in mano agli strozzini. L'allarme, la denuncia di Draghi alla Commissione Antimafia. C'è stata un'audizione l'altro ieri del governatore della Banca d'Italia e c'è stata questa denuncia. L'identikit degli strozzini, vicini di casa e finti amici. Rita Fatiguso, sulla base di un rapporto del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale della provincia di Milano, traccia l'identikit di degli strozzini, delle persone che sono in agguato per appunto strozzare chi ha bisogno di soldi. A pagina 8, ve lo dicevo prima, a Parigi sta per arrivare Autolib. Dopo il successo delle biciclette con Velib, toccherà alle vetture elettriche. In città 3.500 minicar e 700 parcheggi. Sarà possibile prendere un'auto in una stazione e lasciarla in un'altra. E poi tutte le specifiche su questa iniziativa indubbiamente meritoria per una città così frequentata dai turisti come Parigi, che magari potrebbe servire anche da esempio per qualche altra città italiana. Restiamo sul Sole 24 Ore, a pagina 21, la giungla dei decoder con la televisione digitale, un articolo di Mario Cianflone. Con l'arrivo di TVSAT aumentano anche i telecomandi e i cavi. Esiste un solo apparecchio che riceve Sky, il DDT, cioè sarebbe il digitale terrestre, e il satellite. E spiega Cianflone, esiste un telecomando, il 2.0. Per governare l'intero sistema di intrattenimento serve un telecomando universale in grado di gestire una pluralità di apparecchi. Sul mercato ci sono modelli economici, ma complicati da programmare. Per avere il massimo della semplicità occorre essere disposti a spendere, come nel caso dei Logitech Harmony. Si programmano via PC. Il software, attraverso una banca dati di codici, permette di selezionare gli apparecchi da controllare e si impostano attività come vedere la TV o un film in DVD, ma anche abbassare l'aria condizionata. Il tutto in punta di dita. Il difetto, il prezzo. Quelli top costano quanto una TV da 32 pollici. Questo è l'articolo di Mario Cianflone sul Sole 24 Ore e vediamo che la stessa tematica ha colpito anche Michele Serra che, e passiamo a Repubblica, nella sua amaca scrive: quando mi spiegano come funzionerà il mio televisore di qui a qualche mese, mi scende un sipario nero nel cervello. Rifiuto totale e rabbia sorda. Credo di aver capito che, per vedere le stesse cose che vedo adesso, avrò bisogno di tre decoder con relativi telecomandi, uno per Sky, uno per lo stramaledetto digitale terrestre, uno per il nuovo pacchetto berluscoide, Rai Mediaset in simbiosi. Che tutto questo serva al business televisivo e al ricco indotto di elettronica connesso non c'è dubbio, che serva agli utenti è assolutamente escluso. Questo Michele Serra, che nel suo modo ironico, ma tratta un tema, perché se avete sentito quello che dicevo poco fa a proposito della programmazione di questi telecomandi, io mi chiedo come faranno le persone anziane che usano a malapena il cellulare a sistemare tutto questo ambaradan per poi vedere la televisione. In prima pagina sulla Repubblica voglio citarvi l'articolo di Pietro Citati, una invettiva, vi spiego perché il Louvre è il museo peggiore del mondo. Un articolo che inizia in questo modo: nel 2008 il nuovo e grande Louvre, il più frequentato museo dell'universo, ha avuto circa 8.550.000 visitatori, mentre gli Uffizi, il museo italiano più frequentato, soltanto 1.554.000. Se posso dire una cosa ovvia, il grande Louvre, non certo il vecchio amabilissimo Louvre, è uno dei peggiori, forse il peggiore, museo della Terra. Non è un museo, ma un'industria, una fortezza, una cittadella, una Bastiglia, un ministero, una zecca, uno stadio, una stazione, un aeroporto, una reggia, un lager. Non è fatto per accogliere amanti dell'arte, ma per migliaia di motociclisti, ognuno con il suo casco, che attraversano velocissimamente le sale senza mettere mai il piede a terra. Questo ovviamente è il modo, diciamo, letterario di Citati di sollevare un problema vero, cioè quando l'arte viene spinta un po' troppo verso il consumismo. dalla Repubblica ancora, prima pagina, mafia, rivelazione di Violante. Mori mi disse: Ciancimino ti vuole parlare. A quell'epoca Violante era presidente della commissione antimafia, l'ex parlamentare e PM di Palermo. Era il 92 e rifiutai ogni contatto. E veniamo così a sapere, leggendo di questa vicenda sulle stragi, i contatti tra mafia e politica, che oggi verrà sentito nel carcere di Opera Salvatore Riina, dopo le sue frasi affidate all'avvocato su questa vicenda, e vediamo se risponderà o meno ai magistrati di Caltanissetta. Sempre dalla Repubblica vi segnalo un articolo di Chiara Saraceno, La sindrome del maschio, e uno di Filippo Ceccarelli, Il cavaliere alle tombe fenice, che si riferiscono alla vicenda del Presidente del Consiglio e della sua vita privata. La sindrome del maschio, la Chiara Saraceno è una sociologa che indica come alcuni punti per i quali probabilmente Berlusconi ha questa empatia con il maschio e anche con le donne italiane, a causa proprio del suo modo di interpretare la vita privata. Mentre Ceccarelli si dilunga, scrive sulla vicenda delle tombe fenice, perché nelle ultime intercettazioni pubblicate tra, probabilmente fornite dalla stessa escort D'Addario, Berlusconi le parla di 30 tombe fenice che sarebbero sotto il suo giardino di Villa Certosa e di cui il Ministero dell'Ambiente piuttosto che dei beni culturali non sapevano nulla. Dal Corriere della Sera, in quest'ultimo minuto, vi segnalo solo, a proposito del problema dell'immigrazione, insegnerà a Sydney, scade il visto al professore indiano e la Bocconi perde il ricercatore. Vikas Kumar, 32 anni, indiano economista, aveva un contratto da ricercatore all'Università Bocconi di Milano, ma il suo visto era scaduto e la burocrazia ne ha impedito il rinnovo. Ora ha accettato un lavoro all'Università di Sydney. Bene, con questa notizia, mi spiace, ce ne sarebbero molte altre che mi sarebbe piaciuto segnalarvi. Io comunque vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, che mi verrà assegnata per leggere i giornali insieme a voi.